siamo in piazza San Giovanni e qui sono arrivate le cariche. Ora si sparano lacrimogeni e forse insomma abbiamo tanti botti, lacrimogeni ci attivano gli occhi anche a noi che siamo qui sul sagrato della chiesa e siamo praticamente bloccati in piazza un po' tutti e c'è un corri-corri generale. Non si sa da che parte andare, siamo bloccati qui. D'accordo. Ora vediamo, abbiamo ricevuto le forze dell'ordine arrivare correndo con i manganelli in mano, eccetera, eccetera. Va bene, d'accordo. Appena avete ulteriori informazioni manteneteci informati, va bene? Ok, ciao. Grazie mille. Ciao. Da dove va Quart?